si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. Buongiorno cari ascoltatori, ben ritrovati. Innanzitutto vedo che cominciamo ad andare bene sul concorso, avete preso la mano e state votando questi primi 12 mesi di programma. Vi abbiamo chiesto di votare le vostre storie preferite, lo state facendo, sono divise in 4 categorie. Per chi vince ci sarà la possibilità di tornare in trasmissione e raccontare le evoluzioni della propria iniziativa. Invece voi ascoltatori che partecipate votando potrete aggiudicarvi, portarvi a casa un soggiorno, una vacanza soggiorno sostenibile offerta dagli amici di EquoTube. C'è scritto tutto sul sito, dunque andate, votate e partecipate. Iniziamo subito con qualche notizia della settimana per entrare nel vivo anche della puntata di oggi. Comune di Bologna, sì alle coppie di fatto, tenetevi forte anche nell'aldilà. Il Consiglio Comunale Cittadino infatti ha approvato un documento che consente di essere sepolti, è un po' macabra come cosa, però è così, accanto al compagno o alla compagna. È un piccolo diritto che però non è garantito a tutti. Noi diciamo e continuiamo su questa strada, più diritti per qualcuno non fanno male a nessuno, e insomma anche al cimitero forse è giusto che ci sia la possibilità di vedersi riconosciute come coppie di fatto. Ripetiamo, più diritti ad alcuno non fanno male a nessuno, dovrebbe essere così. Vedremo se il prossimo Parlamento affronterà questa questione oppure rimanderà come è stato fatto in passato. Una questione che riguarda una parte degli italiani, ma una parte consistente che da tempo chiede che venga regolamentata questa questione qua. La prossima notizia viene da Bari: un assegno alle famiglie più povere, un sussidio del comune di Bari dai 230 ai 400 euro alle famiglie più povere. Sono soldi stanziati dal Ministero del Lavoro che il comune di Bari ha deciso di mettere a frutto in questa maniera. Si calcola che a Bari ci siano 3.000 famiglie che hanno un reddito inferiore ai 3.000 euro, e allora si cerca di mettere una toppa, però meglio di niente, su questa questione delle famiglie più povere. Oh, quest'altra notizia invece viene da Napoli, e altro che Gomorra 2. Avete sentito che c'è stata la polemica perché non è stata autorizzata la fiction su Gomorra? Ne è stata autorizzata però un'altra che partirà in autunno, L'oro di Scampia con Beppe Fiorello. Questa è una storia bellissima perché parte dalla vicenda della famiglia Maddaloni, che proprio a Scampia con la loro palestra, lo Star Judo Club, hanno dato vita a una serie di campioni straordinari. Non solo il figlio Pino, che ha vinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi, ma anche la moglie di Clemente Russo, vice campionessa d'Italia più volte, Laura. E poi insomma una palestra dove veramente si mette in scena il riscatto di un quartiere di cui si parla spesso per questioni non proprio positive. E questa è una bella fiction, una volta tanto la Rai ne ha imbroccata una. Adesso però andiamo a incominciare. Abbiamo parlato la settimana scorsa molto della vicenda di Adro, sentiamo cosa ci hanno lasciato questo ascoltatore nella nostra segreteria telefonica. Ciao Michele, non capisco perché stiamo discutendo ancora di dare o non dare da mangiare ai bambini a scuola, all'asilo. Ai bambini va dato da mangiare gratis a tutti, poveri e ricchi, senza nessuna discriminazione. Togliamo le pensioni, i vitalizi, oltre 100.000 euro all'anno, perché sono dati a gente che non ne ha assolutamente bisogno. Lasciate anche voi un messaggio alla segreteria telefonica di Radio 24 al numero 828 12 12. La vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one goal, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shaft of light that shows the way. No mortal man can win this day. It's a kind. Inside your mind. Sono spariti come per magia i soldi del Monte dei Paschi di Siena. Il buco esattamente non si sa quanto corrisponde, però questo è quello che è successo. E allora, al di là della questione degli intrecci con la politica, quello che ci preoccupa è che la terza banca italiana abbia potuto fare queste operazioni spericolate con i soldi dei risparmiatori. E siccome questo è un programma a caccia disperatamente di buone notizie, di buone pratiche, ci siamo chiesti: esiste una banca differente? Esistono delle banche differenti? Non lo so. Esiste però la banca etica, che vuole essere sicuramente differente. E allora abbiamo convocato Marco Crosta, il direttore generale di Banca Etica. Buongiorno. Buongiorno a voi. Insomma, non si parla d'altro. Visto dal vostro punto di vista, adesso ci direte perché voi siete differenti. Che effetto fa questa vicenda dello scandalo Monte dei Paschi di Siena? Ma è una situazione che sicuramente preoccupa, al di là delle questioni che potranno assumere carattere giudiziario, dove chi di competenza dirà come effettivamente sono andate le cose, però a nostro avviso evidenzia che c'è un modo di far finanza che non è sostenibile. Perché la cosa venga ridimensionata, serve assolutamente una modifica delle regole, una modifica delle normative che permetta alla finanza di essere a sostegno dell'economia reale e non di sbizzarrirsi in avventure speculative. Per esempio, questa cosa dei derivati, no? Ora, al di là poi dello strumento in particolare, sono tanti gli strumenti che vengono utilizzati dalla finanza per fare diciamolo chiaramente, dei giri contabili, no? Per far sparire perdite, eccetera. Certo, è un dato più che acquisito che oltre il 90% dei derivati sono utilizzati per fare finanza speculativa e non sono utilizzati come erano nati secondo una logica di assicurazione, per cui è assolutamente un tipo di attività che deve essere ridimensionato. Ma esiste regolamentato. Sì, un paese nel mondo, che ne so, dove questi derivati sono... Ora, poi è difficile perché la finanza internazionale è internazionale, globalizzata, si fa tutto con online, insomma, ma esiste un posto dove i derivati sono stati banditi? No, direi di no. Come mai? Esiste però in giro per il mondo una serie di esperienze, qual è l'esperienza di Banca Etica in Italia, che dimostra come non utilizzando i derivati e come non utilizzando finanza speculativa, nonostante il momento di crisi, si possano registrare dei risultati. Ecco, appunto, positivi. Questo mi sembra interessante, perché voi dite: è il quinto anno consecutivo che siamo in crisi, ma noi come Banca Etica invece continuiamo a crescere e soprattutto ad erogare prestiti a famiglie e imprese. In che cosa è differente, dottor Crosta, la Banca Etica? Banca Etica fondamentalmente è differente per il grado di trasparenza che caratterizza tutte le attività. Per parlare di una cosa concreta, vi dico che Banca Etica pubblica sul sito, quindi con accesso possibile a chiunque, pubblica sul sito tutti quanti i finanziamenti che vengono concessi, in modo tale che ci sia un collegamento sia chiara la filiera che fa il risparmio dei cittadini e delle organizzazioni dal momento in cui entrano in banca al momento in cui vengono utilizzati. No, abbiamo sempre bandito attività su paradisi fiscali, a suo tempo abbiamo detto no ad accettare risorse che provenissero dallo scudo fiscale, non abbiamo mai accettato e mai operato con rapporti al portatore, per cui la trasparenza è sicuramente l'elemento caratterizzante l'attività di Banca Etica. Senta, voi che con il vostro servizio di banca che fa la banca, che appunto continua a fare sempre più prestiti alle famiglie, alle imprese, date alla mano, e che siete lontani anni luce da quello che è successo per esempio al Monte dei Paschi o anche, insomma, altri scandali bancari, finanziari che ben conosciamo, adesso però chiedete, visto che si va a votare, che insomma, il prossimo Parlamento, il prossimo governo faccia qualcosa per agevolarvi, perché dice: noi facciamo il nostro lavoro, però se poi ci mettete anche i bastoni tra le ruote, e questo non va bene. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Di nuovo in compagnia del direttore generale di Banca Etica, dottor Marco Crosta, col quale insomma stiamo cercando di capire se una banca come questa può avere un ruolo positivo, visto quello che stiamo vedendo per quanto riguarda Monte Paschi, ma insomma tutta una serie di altri scandali finanziari di cui abbiamo sentito parlare mille volte. Ci sono le elezioni, voi avete inviato una lettera ai candidati, cosa chiedete? Sì, abbiamo inviato una lettera in cui poniamo 5 domande. Innanzitutto chiediamo un miglioramento dell'attuale formulazione della Tobin Tax, perché riteniamo che questo sia un modo per contenere l'utilizzo della finanza speculativa. La seconda domanda, un impegno preciso per contrastare la fuga di capitali verso i paradisi fiscali. La terza domanda, delle modalità, delle normative che facilitino l'azionariato popolare, che è sinonimo di democrazia economica. Quarta questione che poniamo è la richiesta perché venga facilitato l'uso del microcredito quale modalità di inclusione sociale. L'ultima domanda che facciamo è rispetto ad una revisione della normativa di Basilea che faciliti l'accesso al credito anche dell'impresa sociale, che attualmente è particolarmente penalizzata. Ovviamente alcune di queste questioni sono anche un po' tecniche e forse non vale la pena addentrarsi, però un tema che invece è sempre di grande fascinazione popolare, non si capisce poi perché i soldi all'estero ce li mandano in pochi, però tutti ne parlano. Come si fa? Cosa chiedete in concreto voi? Come potrebbe fare il governo per evitare questa fuga nei paradisi fiscali? Esistono degli strumenti a vostro modo di vedere? Beh, sicuramente la leva fiscale è un elemento fondamentale. Nella richiesta che facciamo, siccome ci sono anche società italiane controllate dal Tesoro che operano nei paradisi fiscali, almeno chiediamo che ci sia l'impegno per far sì che questo venga meno, per far sì che le aziende di Stato non utilizzino i paradisi fiscali. Insomma, va bene, questo è quello che voi proponete, questo è quello che chiedete anche alla politica. Speriamo che qualcuno vi ascolti, senza adesso entrare troppo in particolari, in 30 secondi, c'è qualcuno che vi ha risposto a questa lettera, per esempio? No, al momento no, però c'è una petizione aperta sul sito www.change.org che in pochi giorni ha raggiunto quasi le 10.000 adesioni, per cui la cittadinanza sente in modo molto forte questo tipo di temi. Ci auguriamo che lo senta anche il mondo della politica. E ce l'auguriamo anche noi. Grazie intanto a Marco Crosta, direttore generale di Banca Etica, per quello che fate. Adesso noi invece ci spostiamo a Genova. Solitaria nella tua stanzetta umida, ripassi bene la lezione di filosofia e la mattina sei già china sulla scrivania e la sera ti ritrovi a fissare il soffitto, i soldi per pagare l'affitto te li manda papà. Ricordi la corriera che passava lenta sotto il sole arroventato di Sicilia, fichi d'India che crescevano disordinati ai porti dell'estate, lucertole impazzite, le poche case. Ripensi a quel profumo dolce di paese, pane caldo, i pomeriggi torridi, la piazza la domenica, il mare sconfinato che si spalancava dal terrazzo della tua camera da letto. Ripensi alle salite in bicicletta per raggiungere il cadavere di una capretta, il tabernacolo della Madonna in cima alla montagna, che emozione, tutte le candele accese di un paese in processione, gocce di sudore sulla fronte, odore di sapone, di marsiglia, di lenzuola fresche per l'estate, gli occhi neri di una donna ferma sulle scale, gli occhi di tua madre, studentessa universitaria, triste e solitaria, nella tua stanzetta umida. Una bella iniziativa arriva dall'Università di Genova, dove per contrastare il fenomeno dell'abbandono universitario, soprattutto ai primissimi anni, da parte quindi delle matricole dei giovani che non si sono ancora del tutto inseriti, è questa: dare uno stipendio agli studenti più grandi per trattenere, non si sa come, adesso lo chiederemo al nostro prossimo ospite, proprio questi studenti universitari, e così limitare l'abbandono, che è ben del 17% tra il primo e il secondo anno. Noi abbiamo convocato niente po' di meno che il rettore dell'Università di Genova, Giacomo De Ferrari. Buongiorno. Buongiorno. Allora, prima di tutto il titolo ci ha colpito, stipendio agli studenti migliori per trattenere le matricole. Non si parla d'altro in questo periodo che di quanto le università a volte siano poco attrattive, poco attraenti, e ci sono delle cose che non funzionano. Tac, una bella iniziativa. Qual è il meccanismo che avete pensato per fare questa cosa, rettore? Dunque, intanto il problema consiste nel fatto che in Italia in media 16-17% degli studenti abbandonano l'università o cambiano corso, ma in maniera radicale, da una facoltà all'altra, da un'area all'altra. A Genova la situazione è migliore, è già migliore perché siamo al 10% di abbandoni e un poco più di aumentano di poco questi 10% se si considerano gli spostamenti di corso. Però voi non vi accontentate. E noi non ci accontentiamo. Allora abbiamo studiato questo meccanismo. Gli studenti anziani e bravi, e poi non solo gli studenti, dottorandi, assegnisti, borsisti, insomma persone che non sono veri e propri docenti strutturati, ma che hanno già un ruolo significativo e che hanno una qualità sufficiente, si immagina, se hanno superato questi concorsi. E a 300 di queste persone paghiamo un piccolo stipendio per aiutare studente per studente gli studenti che dai primi dati sono già in difficoltà. Ecco, ma come pensate di filtrare, diciamo, sia quelli che faranno da tutor e anche invece lo studente, diciamo, in difficoltà? No? Difficoltà. Perché, allora, per quello che riguarda gli studenti che faranno da tutor è semplice, noi abbiamo fatto un bando che partirà tra poco, entro giugno avremo l'inizio in base alle risposte che ovviamente selezioneremo sulla base, diciamo così, del curriculum dimostrabile. E saranno le persone che faranno questo tipo di attività. Per quello che riguarda gli studenti, l'abbiamo messo a punto da anni un metodo che si chiama IRIS, che permetteva di confrontare proprio la performance dello studente, per esempio a seconda delle scuole di origine, delle scuole superiori di origine. Noi abbiamo modificato questo meccanismo e con un sistema molto più sofisticato noi siamo in grado, abbiamo visto che con una serie di algoritmi adeguati. Oddio, gli algoritmi, sto perdendo, rettore. Allora, andiamo a sintesi, diciamo, perché sennò non ci capiamo più. Calcoli, sì. Un po' di calcoli complicati, sì. Si riesce a prevedere con una sufficiente accuratezza, sì, dal comportamento dello studente al primo anno cosa succederà dopo. Ecco, mettiamola così, è molto facile. Oddio, prevedete il futuro, ma insomma questi studenti che meritano, diciamo, l'attenzione dei tutor, sono studenti che per cui voi prevedete che andranno a finire male, no? Sono studenti che vanno già male, che hanno qualche difficoltà. Sì. Sarà su base volontaria che si può aderire a questa cosa qua? No, sarà su noi, sì, sarà volontaria, perché se questi si rifiutano non si rifiuterà nessuno. Il problema è che abbiamo visto con questi calcoli che quando uno studente è in notevole difficoltà, sì, che non riesce a frequentare, da pochi esami, li ripete, eccetera, il primo anno, di solito, salvo casi eccezionali, mollano. Continua così, continua così o molla, quindi va fuori corso o se ne va. E noi vogliamo con questo meccanismo ridurre i fuoricorsi e ridurre gli abbandoni. Cioè volete intervenire sul male prima che cresca, cioè sulle difficoltà, esatto, prima che diventino troppo ingombranti, insomma. Esatto. Ecco, quindi mi pare di capire, il progetto è più che un progetto, cioè partite, no? È una cosa concreta. No, è già approvato, dagli organi di governo il bando si concluderà a giugno e a giugno faremo la selezione dei candidati a fare questo tipo di attività. Cioè, sì, non è un progetto, era un progetto che già adesso sta diventando realtà. Benissimo, dunque la sintesi, titolando, è un stipendio agli studenti anziani migliori per trattenere gli studenti più giovani in difficoltà dentro l'università. Quanto sarà questo stipendio più o meno? Noi abbiamo investito 300.000 euro. Che non è poco. E quindi ogni tutor quanto prenderà in tasca, giusto per capire? Beh, dipende da quanti sono, perché sono 300 in 3 anni, quindi sì, sono 100.000 euro l'anno. Dipende, butta via. Dipende da si sprecano tanti soldi negli enti, compresa l'università, per cui questi sicuramente non sono sprecati e vanno a buon fine. Senta, rettore, le vogliamo chiedere anche un'altra cosa. Ci eravamo sentiti qualche mese fa, perché lei era stato si era proposto un'altra iniziativa dopo segnalazioni, credo, di alcuni studenti sull'assenteismo dei docenti. Lei aveva avviato un'indagine interna, un censimento, com'è andata a finire? Ma direi che è andata a finire bene, perché a parte pochissimi casi. Quanti ne avete licenziati? No, scherzo. Lei si stupirà, ma credo che siamo l'unica università che nell'ultimo anno ha licenziato 2 persone, 2 docenti. Per quale motivo? Anche per questo? Vabbè, io su questo magari preferirei non entrare. Ma ci sono questioni legali anche magari in corso. Sì, perché ma mi può dire solo se è collegato anche a questa iniziativa sua sul tema dunque, della un caso è strettamente collegato perché consiste in un docente che magari è anche bravo, ma che era titolare mentre era ricercatore non confermato, quindi non poteva fare attività extra-universitarie. Era e la faceva. Titolare. Era titolare di un'azienda importante. Addirittura. E quindi gli avete dato un calcio nel sedere? Sei fuori? Mesi di sospensione, che è una cosa pesante. Sei mesi di sospensione? Sei mesi di sospensione. Però poi deve rinunciare a essere titolare di questa azienda oppure può rientrare e fare come prima, no? Può rientrare e mettersi a tempo parziale, quindi dimezzando lo stipendio e quindi evidentemente facendo il lavoro, diciamo avendo lo stipendio adeguato. E questo è un caso. L'altro caso? Beh, l'altro caso è un caso più complicato su cui preferirei. Quello è stato fatto licenziato, però di quello magari preferirei parlarne, diciamo, non così. E, comunque, poi abbiamo analizzato tutte le facoltà, tante situazioni. Devo dire che c'è in corso ancora l'indagine della Corte dei Conti, però il problema si è. Molto ridimensionato. Cioè, avete dato una svegliata, insomma, anche, anche grazie all'iniziativa degli studenti, credo di aver capito. Poi vi siete mossi. Adesso chi faceva il furbo lo sta facendo un po' di meno. Poi l'avete buttati fuori. Insomma, poi ovviamente ci sono questioni legali e non vogliamo entrare nel merito di questo. Però l'iniziativa ci sembra importante che insomma l'università non chiuda gli occhi di fronte anche a queste denunce di assenteismo che arrivano spesso da parte degli studenti. Bravo rettore, grazie, che dire, sono due belle iniziative, vi seguiremo ancora, staremo a vedere e buon lavoro. Grazie, altrettanto, arrivederci. Si può fare cronache da un paese migliore. Vecchi solai e ciminiere, lavatoi al decimo piano, fumo che sale in paradiso e gli angeli cadono giù. La zappa, il tridente, il rastrello, la forca, l'arato, il falcetto, il trivello, la vanga e la terra che spesso ti infanga. Una mansarda in via Condotti, mochette, plafon, cassettoni, giovani artisti e vecchie tardone si realizzano nel nobile bridge. La zappa, il tridente, il rastrello, la forca, l'aratro, il frangetto, il trivello, la vanga e la terra che spesso ti infanga. Giovane bello, divo e poeta, con un principio di intossicazione aziendale, fatturato lordo, la classifica che sale, il resto lo trova nei. La zappa, il tridente, il rastrello, la forca, l'aratro, il falcetto, il trivello, la vanga e la terra che spesso ti infanga. Per superare la disoccupazione bisogna darsi al lavoro nei campi, all'agricoltura c'è poco da fare, lo dicono i dati, è l'unico settore che è in crescita e sono sempre di più le persone che fanno in effetti questa scelta. Ora, scherzi a parte, ognuno fa quello che vuole, però se i dati dicono che questo settore tira, che i prodotti dell'agricoltura biologica funzionano, che vivere fra l'altro all'aria aperta fa bene a tutti, allora perché non prendere in considerazione veramente questa ipotesi? Qualcuno parla di un ritorno al passato negativo, chi lo sa? Noi abbiamo convocato una persona che questa strada l'ha intrapresa. Da quanto tempo, Enrico Magnini, agricoltore di Vermiglio in provincia di Trento, da quanto tempo lei ha cambiato vita? Ho cambiato vita, diciamo, da 3 anni, nella primavera del 2010 praticamente ho intrapreso questa nuova professione. Non era nuova, ma comunque era nuovo il suo impegno, anche se credo che abbia appunto un'azienda di famiglia, no? Sì, praticamente ho l'azienda di famiglia, allevo vacche da latte e ne ho qua una trentina circa. Ah, senta, prima di tutto dove ci troviamo? Siamo in un posto anche in Trentino, noi un bel paesaggio, no? Siamo in Trentino, in Val di Sole, a 1300 metri sul livello del mare, paesaggi meravigliosi. In cima proprio, la cultura unica è l'allevamento che può esistere qua. Sì, cioè immagino che da quelle parti, insomma, darsi all'agricoltura o all'allevamento sia un po' più semplice rispetto a chi, insomma, vive in Lombardia o insomma, in zone dove la campagna è un po' meno attraente. Questo sicuramente aiuta, no? Questo penso che sì, sia così. Diciamo, beh, abbiamo comunque l'ente provinciale che insomma ci dà una mano sicuramente. Una mano. Però lei ha mollato, lavorava nell'impiantistica delle piste da sci, è così? Sì, io lavoravo tutto l'anno fisso, un posto fisso, lo facevo da 16 anni. Cioè lei ha mollato le piste da sci per darsi a lavoro all'agricoltura, all'allevamento, sì, è una cosa un po' folle. Una passione, uno stile di vita, non tutti lo potrebbero fare comunque, sono sacrifici. È pesante? Dall'alba al tramonto, diciamo, ecco. Ecco, fisicamente dico, è molto pesante? Ma fisicamente neanche, è proprio la costanza che ci vuole, giornalmente, quotidianamente ci vuole costanza, tutti i giorni bisogna essere presenti, cioè, le ferie sono una settimana all'anno, ecco, diciamo, riuscendo. Ma allora quali sono le soddisfazioni? Scusa, perché il lavoro è faticoso, ci vuole costanza, le ferie sono una cosa all'anno, una settimana all'anno, ma chi gliel'ha fatto fare? Ma no dai, il reddito insomma c'è, insomma, ecco. Non ci si può lamentare, fino a che abbiamo delle produzioni un po' particolari, riusciamo anche a vendere bene il latte. Voi che cosa producete? Latte e quindi derivati? Noi produciamo Trentin Grana e dopo vari prodotti tipici locali. Senta, ma se dovesse dare un consiglio a qualcuno che magari è meno fortunato di lei, che l'azienda di famiglia non ce l'ha e magari non vive neanche in un posto dove insomma la campagna è bella come in Trentino, comunque in generale, no? Visto che è un passaggio che molti sognano, ipotizzano di poter fare per necessità o anche per voglia, di darsi a questo tipo di vita, da dove si comincia? Comincia intanto ad avere una gran passione, dopo sull'allevamento è una cosa troppo rischiosa se non si ha niente in mano praticamente, ci sono grossi investimenti da fare, grossi capitali, non saprei fino a che punto uno consiglierei di intraprendere questa. Cioè lei non vuole, teme la concorrenza, non vuole che qualcun altro le porti via il lavoro, quindi sconsiglia. Guardi, siamo aperti, sono aperto alla concorrenza, nessun tipo di problema, è che ci vogliono ingenti capitali per iniziare. Questo ma uno può anche andare a lavorare. Ma uno può anche andare a lavorare in un'azienda agricola che c'è già, insomma, da voi, non è che per forza non deve aprirla. Quello può essere, in effetti ci sono. Voi avete della gente, delle persone che lavoreranno per voi, pagate bene, cioè è un lavoro che rende anche per chi è dipendente? Ah, rende certamente, le paghe sono sindacali o comunque ci sono belli incentivi, sicuramente il lavoro è un lavoro che bisogna alzarsi magari alle 4 la mattina fino alla sera, alle 6, alle 7 o... E i riposi non sono così garantiti come può essere in una fabbrica, certamente. Ma cos'è la cosa che la gratifica di più del lavoro che fa? Quando alla fine arrivano gli introiti della vendita del latte, oppure svegliarsi la mattina presto, vedere l'alba, godersi questi cose così poetiche che noi che viviamo in città immaginiamo, poi magari non sono reali? Ma guardi, di poetico c'è, sì, un lavoro che ti dà libertà, la possibilità di potersi gestire e poi le soddisfazioni sono logicamente anche economiche, perché se non vi è ritorno economico non può stare in piedi la cosa sicuramente. Va bene, grazie, insomma in bocca al lupo per la sua attività. Enrico Magnini, agricoltore allevatore di Vermiglio in provincia di Trento, uno che questo passaggio lo ha fatto e i numeri dicono che sono sempre di più, a volte anche per necessità. La zappa, il tridente, il rastrello, la forca, la rapa, il faccetto, il crivello, la vanga e la terra che spesso ti infanga. Castoro, visone, il conte dell'acqua, salmone, caviale, champagne, la grande soubrette, Brigitte Lacan, coperta di cincillà, la zappa, il tridente, il rastrello, la insomma, diciamo, darsi alla zappa, al tridente e alla falce per necessità, come accade, per esempio, in provincia di Como, siamo ad Arosio, e per combattere la crisi il comune, credo, ha deciso di dare in gestione delle famiglie degli orti sociali. Quindi si va a lavorare la terra proprio per avere prodotti di prima necessità. Ne parliamo con Piero Torricelli. Buongiorno Piero. Sì, salve. Del coordinamento volontari di Arosio, che è promotore di questo progetto. Esattamente. Come funziona? Allora, funziona in questo modo, che come coordinamento abbiamo fatto una richiesta alla Regione di finanziare questo progetto. Il progetto quindi è in capo al coordinamento comasco, al coordinamento di volontari di Arosio. Ecco, però adesso non ci faccia la storia del processo, della procedura, ci dica come funziona questo progetto. Quante famiglie sono coinvolte? Allora, le famiglie sono in 10 del paese che versano in crisi, a causa della crisi economica, hanno dei problemi appunto a tirare avanti durante la vita normale. Cioè, problemi conclamati, no? Verificati da chi? Dall'assistente sociale, dal comune? Noi appunto abbiamo allacciato dei rapporti con l'amministrazione comunale, in particolare con l'assessorato ai servizi sociali, in modo tale che possiamo evidenziare quali sono queste famiglie e le stiamo aiutando già anche per altre attività, nel senso che forniamo a loro un pacco alimentare mensile. E all'interno di tutta questo lavoro abbiamo appunto pensato che c'era la possibilità di fornire loro anche con l'aiuto del comune un appezzamento di terra di circa 50 metri quadri. Che non sono pochi. Cos'è? Un terreno demaniale del comune? No, un territorio del comune. Del comune, quindi non costa diciamo nulla a nessuno. E 50 metri quadrati possono sembrare pochi, ma io assicuro, perché se uno ha mai avuto pratica, un orto di 50 metri è grosso e basta abbondantemente per una famiglia. Ma cosa sono buoni poi i prodotti? Voi in che zona siete della provincia di Como, una zona di campagna? Noi siamo al confine con la provincia di Milano, praticamente a una ventina di chilometri da Como e una trentina da Milano, sulla direttrice verso Erba. Ma questi orti vengono dati gratuitamente in gestione alle famiglie? Allora, per quanto riguarda il periodo del progetto, sicuramente, già dal secondo anno praticamente una parte verrà pagata dalle persone e una parte invece ancora da noi, per concludere nell'arco dei 4 anni in cui il progetto verrà attuato, insomma. Quindi diciamo, ma 4 anni è un tempo per rimettersi in piedi, poi l'idea è chiaro che se per caso queste persone, e ce l'auguriamo, avranno la possibilità di, tra virgolette, riscattarlo, cioè nel senso di tenerselo e di pagarlo direttamente al comune, noi chiaramente ci toglieremo. Perché per noi l'ipotesi è quella di partire, di far partire queste persone. E nel caso in cui dovessero trovare il lavoro è chiaro che devono utilizzare un altro criterio che non è più quello attraverso il nostro aiuto. Senta, ma questi appezzamenti, questi pezzettini di terra, io le chiedevo come vengono le verdure, cioè sono pezzi di terra in condizioni, non è che saranno quelli che si vedono, non so, ai margini della tangenziale, che uno dice mai nella vita mi mangerei un pomodoro cresciuto su quell'orticello lì. Da noi siamo un po' tanto vicino alle strade. Comunque le posso dire che siamo accanto a tutti gli altri orti comunali, non è che c'è stato dato. Cioè, ma il comune è mezzo gaudio, siete tutti nella stessa situazione. Però, purtroppo sì, la nostra zona è altamente industrializzata e diciamo ci sono strade dappertutto, per cui non è che possiamo dire siamo all'interno del bosco e non c'è. Però non siamo proprio sulla strada, ecco, le posso dire quello. Quindi speriamo che non costruiscano dell'altro, perché sennò non ci saranno più nemmeno gli orti sociali, perché non so più chi da tempo va dicendo in giro che prima o poi dovremo tornare all'economia della produzione di beni di prima necessità, perché qua produciamo tutto tranne cose che servono davvero per sopravvivere, come in questo caso. Queste 10 famiglie, ma hanno già iniziato a produrre? Sì, abbiamo già iniziato in questo modo, abbiamo pensato di partire con un corso che tra l'altro abbiamo aperto poi anche a tutta la cittadinanza. Per insegnare come si fa a gestire un orto, insomma. Esattamente. Quali sono i prodotti di stagione? Diciamo, fortunatamente abbiamo avuto degli insegnanti molto, molto bravi che sono anche stati in grado di farci vedere quello che facevano loro personalmente. E questo io penso che sia stato uno stimolo non indifferente a cercare di fare la stessa cosa, di eguagliare un po' le loro le loro produzioni, che sono anche delle grosse produzioni, non dico industriali, però certamente molto, molto ricche. Va bene, grazie. Questa è l'iniziativa di Arogio in provincia di Como, Orti Sociali alle famiglie che ne hanno bisogno. Ne abbiamo parlato con uno dei coordinatori e promotori di questa iniziativa. Insomma, fare agli agricoltori può essere una scelta, ma può essere anche una cosa che si fa per necessità. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, mi raccomando, andate a cercarci su Facebook, la pagina Facebook Si può fare trattino Radio 24, ma anche su Twitter Si può fare 24, perché è attraverso questi canali, poi lo diremo anche in onda naturalmente, che vi diremo quando scatterà il momento in cui col concorso che stiamo facendo si passa alla parte in cui si vince il soggiorno sostenibile offerto da EcoTube. Come si fa? Si va sul sito di Radio 24, si trova nell'home page il concorso per celebrare questo primo anno di programma, in cui alcune delle storie che abbiamo ospitato vengono messe a concorso, divise in quattro categorie, si vota. Chi vince avrà la possibilità di tornare in onda e raccontare le evoluzioni della propria iniziativa. Voi ascoltatori che invece scegliete, partecipate e votate, avete la possibilità di vincere questo soggiorno sostenibile, che poi vi diremo come fare. C'è scritto sul sito, ma man mano che andiamo avanti ve lo diremo. Quindi mi raccomando, partecipate, e poi non dimenticate anche durante la settimana la segreteria telefonica per lasciare la vostra ricetta e per salvare l'Italia in un minuto. Sono Nicoletta Danuso di Milano. Ho un piano semplice e audace che risolverebbe contemporaneamente l'evasione fiscale, la criminalità e la clandestinità. Eliminare dalla circolazione il denaro liquido. Qualsiasi transazione, anche la più piccola, deve essere fatta con bancomat, carta di credito e assegni. Ogni spesa così sarebbe tracciabile elettronicamente. Lasciate anche voi un messaggio alla segreteria telefonica di Radio 24 al numero 828 12 12. La vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto. Vorrei un regalo equo e solidale. E allora vai in una delle botteghe del commercio equo e solidale, lascia lì la tua lista dei desideri, che poi io, che sono il tuo amico del cuore, passerò e farò per te questo acquisto e te lo regalerò per il tuo compleanno, per Natale o per Pasqua o per qualunque altra occasione. È l'ultima iniziativa per rilanciare il consumo delle botteghe del commercio equo e solidale, che chiediamo di presentarci a Silvia Bergamo, responsabile della comunicazione di Mondo Nuovo. Silvia, benvenuta. Mondo Nuovo, che cos'è? È un'associazione, una cooperativa che gestisce poi le botteghe del commercio equo e solidale? Esatto, è una cooperativa sociale, quindi un'organizzazione non profit che lavora in particolare sul territorio di Torino e provincia e gestisce 7 botteghe e lavora però in rete con il Consorzio del Promercato, che è una rete nazionale piuttosto conosciuta. Ecco, sì, partiamo, poi ci spiegherà il meccanismo della lista. Partiamo dall'altro mercato, dalle botteghe in Italia, un fenomeno che sta crescendo. Anche a livello di mercato, ci sono delle stime, questo consumo è critico, questo consumo è quel solidale, sta crescendo, a che punto siamo? Il consumo Comunque questo legale, diciamo, ha avuto una grandissima crescita dagli anni 2000, a dire vero, dal momento in cui è cresciuta sicuramente la sensibilità da parte dei cittadini sulle tematiche dell'eticità dei consumi, sull'attenzione all'ambiente e alle tematiche del lavoro. C'è stata una crescita forte, tant'è che oggi è difficile anche tenere il conto delle botteghe, ma sono almeno 350 in Italia. Poi ci sono anche i limitatori, no? Perché c'è l'altro consumo che è la vostra filiera. Poi ci saranno anche... Chiaramente si stanno sviluppando parallelamente altre realtà che però hanno la stessa finalità, quindi in questo siete riusciti anche a raggiungere l'obiettivo di fare diventare anche un po' una moda. Di contaminare, ecco. sì, contaminare in senso positivo, questo è assoluto. È vero che il commercio al questo legale però non è immune alla crisi, assolutamente, come è normale che sia in questi tempi, quindi tante persone stanno facendo fatica. Stanno sentendo. Ma è vero poi che questo, diciamo, aggraverebbe un po', no, anche la condizione, visto i consumi che non vanno bene, è vero che i prezzi sono, c'è questa questione che i prezzi sono un po' più alti, perché essendoci dietro questa ricerca di eticità, no, e di remunerazione anche da parte di chi produce le cose, costano di più le cose di lavoro. Guardi, è vero e non è vero, dipende molto dai prodotti, bisogna dire una cosa, è chiaro che c'è un'attenzione a pagare il prezzo giusto alle persone che hanno lavorato per realizzare questi prodotti, quindi il prezzo che viene pagato a chi lavora e più a chi lavora normalmente, noi lavoriamo con il sud del mondo, quindi ai contadini e agli artigiani è più alto. È anche vero che però si limitano gli intermediari, che nel commercio normale, diciamo nel commercio tradizionale, possono essere tanti, quindi in questo modo si compensa anche un po'. Oggi come oggi devo dire che i prezzi del commercio ecosolidale sono in buona parte prezzi accessibili, sia per quanto riguarda i prodotti dell'artigianato, sia per gli alimentari, che bisogna sempre tenerlo in conto, sono prodotti alimentari di alta gamma, di alta qualità, in buona parte biologici, quindi vanno Il prezzo, diciamo, non è, dice, accessibile, poi bisogna vedere cosa vuol dire accessibile, però sono prezzi per prodotti di un livello medio-alto, insomma, quindi bisogna fare il confronto su quello, naturalmente. Di massima sì, poi come dicevo dipende dai prodotti. E facciamo qualche esempio, no? Perché magari qualcuno non è mai entrato in una bottega del commercio equestolidale, cosa si trova lì da voi? Allora, in una bottega, soprattutto se è abbastanza grande da ospitare tutta la gamma possibile, c'è veramente una grande varietà. Partiamo dai classici, che sono i prodotti alimentari, diciamo che quelli più conosciuti sono il caffè, lo zucchero di canna, il tè, le spezie, che sono i tipici prodotti coloniali, di lì è nato il commercio equestolidale, effettivamente. La gamma è molto più ampia sia dal punto di vista dei prodotti alimentari, oggi ci sono anche tanti prodotti italiani da economia sociale, quindi sempre realizzata secondo i principi del commercio equestolidale, però da cooperative sociali italiane, ci sono quindi prodotti dai dolci, ai succhi di frutta, ai vini, la gamma è ampia. Poi ci sono i prodotti di artigianato, che possono essere l'abbigliamento, oggetti artistici o funzionali per la casa, ci sono libri, riviste, detersivi ecologici, c'è veramente un po' di tutto, tant'è che stanno nascendo in alcune città anche dei mini market interamente ecosolidali. E visto che si fa tutto online, ormai diamo il contatto per chi volesse entrare nell'idea della lista di quello che dicevamo in apertura. Il sito è www.mondo-nuovo.it, oppure ancora più semplice, su Facebook la pagina si chiama proprio Mondo Nuovo. E va bene, insomma, grazie e buon lavoro, in bocca al lupo per tutto quello che fate, Silvia Bergamo di Mondo Nuovo. Ci fermiamo qua anche per oggi, è tutto per questa edizione. Franco Piantanida in redazione, grazie anche a Andrea Piana che ha scritto insieme a me il programma, a Pietro Lacorte in regia. Anche da me, Alessio Maurizi, l'auguro di una buona domenica, una buona giornata, e ci risentiamo sabato prossimo. Mi raccomando, andate sul sito, partecipate al concorso, vi lasciamo alla segreteria telefonica. La ricetta semplice: regolare i crepuscolari per l'accensione dell'illuminazione pubblica, dove si vede che spesso in molte città e nei paesi le luci si accendono molto presto la sera e si spengono molto tardi alla mattina. È una regolazione che costerebbe veramente nulla, ma farebbe risparmiare parecchi quattrini in energia. Lasciate anche voi un messaggio alla segreteria telefonica di Radio 24 al numero 828 12 12. La vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto. Sì!